Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E questa è la sesta settimana di Eclettica. La musica di Eclettica, il cinema di Eclettica, i libri di Eclettica. O sulle frequenze via etere, o sulle frequenze internet grazie allo streaming, o sulle frequenze satellitari grazie alla piattaforma di Sky, oppure nel momento e nel luogo che voi preferite grazie al podcasting. Giulio è da RadioRockFM.com e anche www.myspace.com/eclettica. Questa settimana in compagnia delle parole di Marguerite Duras e quest'oggi ad aprire l'incipit di Moderato Cantabile. «Vuoi leggere cosa c'è scritto in testa al tuo spartito?» disse la donna. «Moderato cantabile», disse il bambino. La donna sottolineò questa risposta con un colpo di matita sulla tastiera. Il bambino non si mosse, la testa rivolta allo spartito. «E cosa vuol dire moderato cantabile?» «Non lo so». Una donna, seduta a 3 metri di distanza, sospirò. «Sei proprio sicuro di non sapere cosa vuol dire moderato cantabile?» Thank you. One Day, Someday, e questo è il titolo del brano che ha aperto Eclettica questa sera. Di solito ci ascoltiamo Giver's Reply da The Boy Who Floated Freely, l'album uscito in Italia per Sleeping Star da parte di Ramona Cordova. È la storia di un ragazzo di nome Giver, qui il titolo della canzone che di solito trasmettevo, che scappa di casa e dopo essersi imbarcato, aver fatto naufragio, arriva esausto su un'isola apparentemente disabitata. A suo risveglio però percepisce una musica che arriva dal centro dell'isola e decide di seguirla fino a trovare un villaggio di gitani dove viene accolto e fidato alle cure e alle pozioni miracolose di Marcia. Questo è in sintesi l'album The Boy Who Floated Freely da parte di Ramona Cordova. Giulio Caperdoni che poi ha proseguito con musica nuova italiana da parte della Urtovox Records, esattamente come nel 2003, gli L, questa volta con un nuovo album dal titolo Be Strong. Noi ci siamo ascoltati la traccia numero 1. Ho alcune date da annunciarvi e permettervi anche di entrarvi gratuitamente nel caso scriviate in tempo a giulio@radiorockfm.com. Cesare Basile assieme ai Wheeler Grant Conspiracy allo Zero Music Club, e sempre Zero Music Club per una data diversa. La data che vi ho appena dato è quella del 27 di questo mese, quindi fra pochissimi giorni. Invece il 3 di novembre a Lockerville River allo Zero Music Club, questo è il nome del locale, suoneranno invece gli Okerville River assieme agli Hogwash. Ora vi lascio con una band e con un brano che so farvi molto felici in questo periodo, voi che ascoltate Eclettica. Si tratta degli Eagle Seagull. Oh! I'm a gentleman, and I don't, I don't kiss and tell. Fuck it, I raise you. Nastiest shit you've ever done. I'm talking about nasty. Wow. So many stories are running through my head right now. I dated this girl for a while, and she was really a nasty freak. She just loved to get down with sex all the time. She was like, any time of day, she was like, yeah, let's go. I'm so nasty. And I'd be nailing her. Oh, shit. She'd be like, oh, you're nailing me. Cool. She talked dirty to you? Oh, she loved to dirty talk. Totally into it. She'd be like, yeah, let's screw. Let's, I want to fuck. God, it was so dirty. She'd be like, oh, me so horny. Me love you long time. I am a cow, waiting to die. Here is your burger, sir. Here are the fries. I am a cloud, traveling the skies. Rain on the Midwest, the forecast provides. Per quel che riguarda il io ed Eclettica, devo ringraziare i podcast. Quando ho visto l'annuncio della novità sul sito, devo ammettere che ero abbastanza ignorante riguardo alla trasmissione. Però mi sono detto, perché non provare? E così, una dopo l'altra, mi sono scaricato tutte le puntate. Beh, dato il titolo della mail, forse dovrei dire quasi tutte. Con l'ascoltarti mi sono però accorto che non eri una novità e, per esempio, mi sono ricordato di una mattina in un ufficio a San Diego che me la ridevo di gusto dopo una tua lettura di un incipit di Stefano Benni. Cosa mi piace di Eclettica? Credo tutto. Chiaramente la musica e soprattutto quella degli autori meno famosi. Per esempio, dopo aver ascoltato un suo pezzo in Eclettica, mi sono comprato l'ultimo CD di Ursula Rucker, un LP fantastico che però non credo avrei mai scoperto senza il tuo aiuto. Poi gli incipit. Sapessi quante volte ho pensato, questo è un libro da aggiungere alla coda lettura. Peccato mi sia impossibile starti dietro. Devo ammettere, vergognandomene un poco, che non sono un gran lettore di libri per svago e con quel che faccio praticamente leggo tutto il giorno articoli e documentazione tecnici, per cui i romanzi affini vengono un po' trascurati. Per ora basta, mi sono dilungato sin troppo. Se sei arrivato fin qui, complimenti per la pazienza. David. And a world pass by, so that what can I do? I'm the halls of a girl's way to a larger swell. Without my heart, what can I do? Con le atmosfere balcaniche che assolutamente non fanno neanche lontanamente sospettare di poter provenire da Albuquerque di Beirut, dell'album Gulag Orchestra era questo Mount Rockley, in precedenza invece ai MK per i Franklin Delano, Giulio Caperdoni è arrivato alla chiusura di quella che è la prima parte di Eclettica di questa settimana, che sforerà un po' rispetto al minutaggio solito perché voglio farvi anche ascoltare The Carnation con Jesus Saves. eclettica. Fine della prima parte.